istintivo, veloce. Sono andato sul Roccaruia, per poco il vento non mi butta giù, perché giù uno si poteva fotografare che c'era il mare che saltava oltre il muretto e bagnava tutta la macchina. Allora sono salito su a Roccaruia, ho fatto un paio di foto da lì, però sempre con la macchina protetta, perché se me la bagna quella qua salata lo sai come no. Poi sono salito su a Roccaruia, ho fatto l'arcobaleno da lì e tutto ho ripreso tutte le onde che sbattevano contro la torretta che c'è, no? E poi mi sono trattenuto poco lì e poi sono salito a Sassari, che avevo delle commissioni da fare. Ehi, no, noi abbiamo fatto foto così, tanto per farle. Abbiamo ripreso un po' i cavalloni, il mare agitato, ma era tutto grigio, tutto scuro, il sole non c'era, c'erano nuvole, quindi era un po' un grigio ridiffuso la foto, dai. Non so foto da fare, io non l'avrei fatto, perché mia zia sempre, dai, fai la foto che è bello, neanche il caldo era, non era bello. C'era un po' di foschia anche stamattina, io non so stasera, ma stamattina c'era foschia. Hanno poi, balla mia, sono passato a Porto Torres e sono sceso a Trattamone e mi sono fermato alla rotonda, e lì lo stesso c'era il mare mosso, ma manco a paragone con quello di Sentino. Sentino c'era proprio una bufera, non potevo scendere dalla macchina perché ti chiudeva lo sportello, non riuscivo a scendere, se rimani mi spingeva lo sportello contro. Minchia, allucinante. E io ero su un punto alto di Porto Torres e il vento mi stava spingendo, magari non così forte, sicuramente dove di tu era più forte. E brutta giornata là. Comunque, per fortuna, questa antenna sta tenendo, nonostante sia da 13. Carpa, Marco. Quando tu moduli, tipo ti ho detto una modulazione, nemmeno uno splatter, si sente tutto un pochettino di quel rumorino lì. Quando modulo, vedi un po', forse la capsula che, vedi un po', 1, 2, 3, prova. No, è proprio una modulazione, Marco. Tanto moduli, c'è una modulazione che ti porti dietro, non si sente bene, capito? Si sente però la voce, ma piccola, capito? Ma è un'altra voce sulla mia modulazione, sulla mia portante, o sono io? No, sì, è un'altra voce, sicuramente è tipo di segnale che lo porti appresso tu, capito? Succede, non è che non sia mai successo. Devo andare a KP2, Antonello e via dicendo. E stasera è stato un bel questione, come non ci... Ero appresso con loro, sono tornato tardi, relativamente tardi, ma poi ero indaffarato con questo tablet, ero avvelenato perché al ritorno volevo far vedere fortunatamente il navigatore la mia zia e non lo trovo da nessuna parte. Ho detto, ma com'è possibile? Io non ne ho disinstallato, dove cavolo è finito il navigatore non si sa, e poi ho saputo questa cosa. E te lo disinstalla facendo questo procedimento? Eia, adesso lo scarico purtroppo. Una cosa, non so, ma si può accendere quando è in carica? Perché il libretto lo sconsiglia, non so perché. Forse perché se lo accendi la batteria non carica, o per altri motivi. No, dovrebbe essere solo quello il motivo, perché diciamo che se è acceso ti ruba tensione, capito? Cosa c'è, Marco? Allora me ne frego, dai. Non vorrei fare danno, capito? Se ne è preso un altro, ne ha passati tutti i colori. Prende una scheda, la mette male nel tablet, il gemello del mio, e si sfascia uno slot per la SIM. Poi abbiamo sfasciato anche l'altro slot, non so come. Poi allora si è preso un altro tablet e non funzionava manco lì. perché si era rovinata la SIM. Sicuramente c'era un filino messo male, come abbiamo acceso il tablet ha fatto un piccolo corto sulla scheda e si è rovinata. Allora ha preso un'altra scheda, la mette nel nuovo tablet, quello buono, e non funzionava lo stesso. E non sapevamo cosa fare, lì era di morale a terra. Oggi dovevamo andare alla Wind a protestare, se non che ho detto aspetta, prima di fare brutte figure proviamo a accendere il tablet. Abbiamo acceso ed è comparsa già la H, che è tipica di quando è presente la connessione. C'è scritto 3G e poi questa H è comparsa, che ieri non c'era. E ha funzionato tutto bene, capito? Ciao Marco. Cap. Non c'è solo Marco, buonasera. E c'è anche Gianni, ballando. Ciao Pum Pum. Ciao Salutoni. Bella radio. Finalmente ti ascolto come si deve. Due e Antonello che parlavano della disastrosa situazione che c'è in Italia per tutto, capito? Lavoro, eccetera. Stanno cercando 5 persone a Russia a lavorare, però deve essere disabile in un albergo. C'è scadenza il mese di febbraio, a tempo determinato, pare che se non mi sbaglio. C'è un ufficio di collocamento, è della regione questo corso. E beh Marco, come va? Tutto a posto? Sì Antonio, l'unica cosa è che qui c'è il trimmer, la deviazione FM completamente chiusa e quindi è scomparso un FM, proprio chiuso il trimmer. Ho controllato nel 3009 il trimmer è a un quarto del percorso, no? Immaginati da zero passi a un quarto, no? La metà della metà. Qui è a zero, è chiuso, non l'hanno regolato. C'è un problema, per regolarlo bisogna rifare una schedina fissata al telaio e la vite, sulla vite c'è blocca filetti. Se io faccio questa cosa mi decade la garanzia, perché se ho un problema lo mando in garanzia, si accorgono che io ho smontato quel pezzo perché si rovina il blocca filetti, quindi non so come fare. Aspetti, allora, quando scade la garanzia, non so, ti tocca rimandare il suo e te lo fai fare gratis. Lui dice che l'FM non esce, e basta, esce solo una M. E lui già ci pensa, non ti preoccupare. Cos'è che poco facciate? Che c'è una bella radio. L'ho sempre avuta con questo microfono, sa delta. Con questo apparecchio rende un bel Antonio. In realtà l'unica cosa che ho cambiato è la capsula di questa saletta. Non ho cambiato nessun'altra cosa, ho messo la capsula del videocitofono, ho visto che esce bene. E poi come stai dicendo, è la cosa principale, la capsula. E allora è quello, dai. La capsula è buona perché... Ma non è altro con le capsule, Antonio. Tutto è terminato, io ho attaccato tutti i videocitofoni che c'avevo. Figurati, ne avevo tre di quei videocitofoni le staccate tutte quante. Se mi capita ho già tirato il culo, per quello già ho messo problemi. Bella, è molto chiara. Sì, vabbè, dai, da qualche portone. No, non è qualche portone, no. Devi trovare il videocitofoni di quelli vecchi, di quello modello che ho io. Qui dal palazzo, capito? Niente, in casa delle persone facciano la cornetta. Ah, dalla cornetta sono. No, pensavo dalla parte di giù. No, della cornetta è questa capsula di colore verde, non è marron. Ma poi il marron non mi piace. Il colore più brutto che c'è è il marron per me. Marrone, verdone, sono i colori che io odio. Poi invece mi piace molto il blu e il bianco. va bene, vedi, che piace, il colore è muy, muy bueno. Grazie Marco. Allora, visto che non ti piace il marrone, ti regaliamo il Superstar, come si chiama? L'LMS 200. Ah, lo odio solo per quello, mi piace come apparecchio, ma se lo fate che sia marrone. E pensa che negli anni 70-80 c'erano baracchini fatti in radica di noce, o stile radica di noce. Però se lo fatti non mi piace. Come quelle macchine americane anni 70 che avevano i bordi, i lati in radica, cagate. Sì, ma anche adesso ci sono alcune macchine che funzioneranno in radica, le macchine diciamo di lusso, Skoda, quelle macchine così. Ah, gli interni però. No, gli americani facevano quelle enormi station wagon negli anni 70 con i bordi, gli inserti in radica di noce, mamma mia, che rozzura, guarda. Lo so, americana che so. Hanno fatto delle belle macchine. Belle macchine? Di lusso, proprio macchine costose come Mercedes. Ma Mercedes è tedesco. Ho detto macchine costose. E diciamo che quelle macchine antiche anni 70 erano belle, quelle lunghe lunghe. Ma che poca lo fu, beh. No, non se c'è un vego, di quelle proprio macchine lunghe di per sé, sì, sportivi. Che cazzo, la sera americana poi si sportivi. Oh, io. Fare i miei aerei. A me piacevano molto le Cadillac anni 80 e 90, molto. Enormi, enormi. Poi queste sospensioni molli fatta. Boom. Belle, belle. Con lo stemma Cadillac. Belle. Che da noi sono grandi come i tram, capito? Non passerebbero. Toglimi la curiosità, tu lo senti Marco che si porta dietro la modulazione quando parla? Ma può Marco parlare? Conti sulla portante, ora parlo, ora parlo, ora non parlo più. No. Adesso si può fare una specie di scali, tipo scalicchette, non c'entra niente quello. No, non è una... è uno splatter, si sentono le voci proprio, le voci però basse basse, capi? Ci ho fatto caso io, la verità. Poi io sto ascoltando anche con le palimpi, sto dando delle trasmissioni, delle cose. Questa ricezione di presi da Jackson. Sto facendo trasmissione e recessione come la linea dritta. Io ho capito per accendermelo, hai capito? Adesso lo busca per il finale, scuccio qua siamo là da sempre male, adesso vediamo la mattina, faccio un uncinetto e per ribuscare il modulatore così glielo piazzo e a posto quello, poi questo già per la busco 1969 glielo piazzo. Tutta roba tua. Sono samurai, no? Non è mio. Io ho bisogno della stazione base. Ficcio io, vorrei. Ma mi sa che mi compro il turbo, 400 euro voglio, non lo sai, Marco, per il turbo. Galaxy Turbo con 100 watt. Ma qual è quello che assomiglia a un HF? No, no, è quasi uguale al Galaxy, solo che c'è la tastiera per mettere, memorizzare diciamo, i canali. C'è una tastiera, E poi il resto è uguale, c'ha praticamente il rosmetro, il frequenzimetro, niente, canale a fianco. È bello comunque. Ah, il classico Galaxy, la stazione base. Ho visto che l'ha fatta la CRT, le stazioni base così, l'ha fatta la Jobbix, quelle stazioni là. Addirittura di questo ho visto chi è il venditore. Questo è prodotto dalla Goodwill Telecom con un Communication STD o LDT, una ditta di Hong Kong. Loro le marca, le vendono e tu te li prendi, che ne so, minimo 5 pezzi, li metti il tuo nome, che ne so, il doppio room 2000, e ti puoi vendere i baracchini col tuo nome. Ho capito, dove li hai visti questa stazione di base? Informami. Sugli archivi di internet, purtroppo credo che non siano in produzione, però si può fare un controllo. Solo che a me, finché è questo, vedi, è passabile, data la marca, no? Però roba un po' impegnativa. Quelle di una volta erano Petrus, Galaxy, non mi ricordo altri nomi, ma erano lì, certe erano color silver, certe erano color bronzo, certe color oro, certe erano anche nere, però troppo ingombranti, diciamo troppo ingombranti da fare sparire in fretta. Ma io l'ho spazio, che ci richiami, capito? Quindi non c'ho problemi. Ho fatto contro lo spazio per il gas e quello lì, adesso ci ho messo il magnum, però è troppo vuoto, ci vuole qualcosa di bello per prenderti a luglio. Niente, ti volevo dire, prova a controllare se ti capita e fammi sapere, dai, che ho intenzione di prendere una stazione base, ma di quelle come si deve, anche nuova se c'è, non mi interessa. Prova, rischiamo, vado di buva. Guarda, c'è una scatola di collirio già. Cosa? C'è una scatola di collirio. Ma cosa? Tu ti devi prendere all'occhio. Ah, non ti avevo capito, ciao. No, è che quando appunto gli occhi mi manca sempre qualche cosa, ho lasciato un vuoto, lo devo colmare. Ciao Marco. Galaxy non uscirà mai, non uscirà mai. Dovevo la toccare perché era mi sono imbruciato, no? Era una bella macchina nuova, Vabbè, io invece ho fatto un business allucinante, mai visto una cosa del genere, proprio si può dire un culo allucinante già. Ho comprato un 140, un 140 che non accendeva, dentro la scatola col nylon nuovo, che non l'ho visto, ma nuovo vuol dire nuovo, sicuramente comprato e interruttore di accensione in corto, volta Fabrizio, mi ha cambiato l'interruttore di accensione, si è praticamente spaventato, mai stato aperto dentro, manco le viti, nulla, tutto con le cerelacca in tutti i vari componenti, nuovo, un interruttore da sostituire. Se ne paga la fessina. 150 euro. Sì, è fatto un affare. Dalla metà. No, me lo tengo, faccio andare un po', ma tu devi sentire, cioè, c'hai i pomeli, gli slider, ancora duri, il volume, proprio si vede, il monopolone, i potenziometri che non sono mai stati usati. Niente, un impeccato, proprio impeccabile, come si dice, impeccabile, punta, mai usato, secondo me manco il PL, perché c'era il tappo nel PL, Marco, dietro, nell'attacco del PL, c'era il tappo in gomma. Bello, bello, quindi lo metto così, me lo metto in macchina uno. fai serio, usi il baracchino in macchina, tutto il resto. No, no, questo non lo tengo veramente, non lo tengo. Poi ne ho portato uno che purtroppo è, ha un problema, lo stesso anche quello è nuovo nuovo di un radioamatore, nuovo nuovo anche quello, però quello c'è un problema serio. Prendersi il suo 140 suo che abbiamo fatto delle riparazioni, minchia, cioè allucinante, proprio nuovo, mai usato, mai, deve essere, l'ha comprato o gli hanno venduto difettoso eccetera, l'ha messo da parte, proprio l'interruttore l'ha sostituito. Caffè, ce l'avevi a portata di mano? Sì, ce ne abbiamo, di 640 con Fabrizio, 140, 440, 430, e quindi gliel'ha sostituito. Cioè, non l'avevo mai vista in vita mia, mi sono passati di mano, parecchi, ma questo è come quando io l'ho comprato nuovo da Mario Notari, uguale, preciso identico. Sono occasioni, ma su internet l'ha preso, no? Ah, non su internet, no. Preso così, parlando con quelli della animatori. Sa che io insomma, qualche lavoretta me lo faccio su questa radio, ma anche a proposito, c'ho un 140, l'ho comprato nuovo, mai usato, l'ho comprato, non ha mai acceso, qui e là, te lo mando. Ho detto sì, ma se non accende, cosa me ne faccio? Ecco, dimmi cosa vuoi, ma tu caricami la carta a 150 euro, vabbè, mandamelo, va, metto male una cazzata e me lo metto a posto. Se non l'ho visto mi sono spaventato. Col nairo, tutto in circolato, col cielo fa. Il manopolone, Marco, con la plastica di protezione, come quando lo prendono nuovo. Come quando lo prendono nuovo. Mi sono spaventato, c'è tutta la ceramica da tutte le parti, mai stato toccato. Quando Fabrizio ha portato via le dopo pranzo alle 4, ma tu passa nel vintage che mi dai il controllo, detto, no, se sta funzionando 140 ti sparo, no, passa, mi gioca sul carro, mi sono spaventato, io non senti che sto parlando con quello, no, questo non è il 430, non mi ha dato un controllo tuo. Comunque si dice in celofanato, Claudio. In celofanato, cosa ho detto? Celofanato. Non ti sei bloccato, perché ti sei pappucciato. Ui, papinato, insomma, mamma mia, c'è un freddo questi giorni, allucinante. No, questo me lo tengo perché è veramente bellissimo, l'ho affiancato al 430, e poi sì, lo faccio andare un po', ma ho provato anche la protetta originale, originale, mai stato toccato, e sulla T250 sono 30 watt importante, 40 modulati, Mickey Gain, dopo 30 secondi sta in aria, che cosa? Questo deve essere una... Perché guarda, non ne ho mai visto così nuovi, mai. avrà l'odore del nuovo ancora. Quello sta bene qua. Moni, sta bene qua, ne voglio due. No, voi siete due pericolosi. Gianni è già la seconda volta più pericoloso. Tu ancora non lo so quanto più può durare. Però io ne ho tenuto tanti, anche peggio di questo. Quello che hai tu non è assolutamente in condizioni brutali, perché è abbastanza nuovo. Questo è due volte, tre volte, cinque volte più nuovo di quello. Proprio la vernice del frontalino non è mai stata toccata, nulla, non ha un graffio né nel frontalino né il piantone. Ho tolto io la carta perché c'aveva la carta, figurati tu. Mi ha creato anche problemi a toglierla, perché ho dovuto togliere piano piano con l'acqua, perché era una carta gommata che mettono per protezione proprio dall'acciaio, ed è lucida, lucida, lucida, lucida, bellissima. A voi non vi durano, non siete appassionati di queste radio, a voi vi durano le stazioni base belle come Galaxy, come tanti altri, ma non siete appassionati di queste radio perché non le usate, capite? Non le usate, quindi voi ve ne disfate. È una decisione pibilistica. Altro affare che ho fatto. 60 e un MC85 che l'ho già dato, MC85 un radioamatore, due MC60 più un MC85, tutte e tre dentro la scatola a 100 euro. Buono, ne valgono 91. Porca miseria. MC85 l'ho dato a sempre a un radioamatore di Alghero. Aveva due uscite, quindi c'ha due cable, c'è un microfono con due uscite, mentre le MC60 uno me l'ho tenuto e uno l'ho venduto lo stesso tranquillamente, tutte e due a metà prezzo. Guardato quanto costano nuovi, le MC60 costa 140 euro e l'ho venduto 70 dentro la scatola. L'MC85 costa 130 e l'ho venduto 60. Io sempre la mia onestà deve prevalere su tutto. No, l'MC60 costa 175 euro, l'ho visto io, a poco. 175 euro dipende da dove hai visto. Io ho chiamato il fornitore Kemud, che è Franco Montagnari, e mi ha detto, io li sto vendendo a 140 euro. 140 euro sono 7,714. C'è chi li prende anche di più, però io non mai c'ho a lui che mi fa capito. Così è. E poi l'ultima novità, Marco, vai a vedertela, dovrebbe fare il prossimo mese, perché l'ultima che è uscita, ho versato l'850, un'altra radio che ci aveva, un GX della Iaesu, 757 GX2, che avevo fatto mettere a posto tutto, e ho preso l'FT di X3000 della Iaesu, l'ultimo nato della casa Iaesu, del bestione, con una redattore di spettro, tutto. HF proprio, solo esclusivamente HF con inserimento per fare attività amatoriale. La 27 non hai comprato una? No, la 27 non c'è una antenna più, ma con quest'anno sono al mezzo, sono entrato a salutare, devi fare, ma devi questa cosa, no, ho fatto tutto l'altro perché devo l'antenna già, mi sto usando la direttiva dei 10 e poi ho già mandato la comunicazione, perché noi abbiamo un diverso sistema, quindi ho mandato la comunicazione a Cagliari, che da quest'anno non pago più la concessione, quindi ho buttato la spugna, già te l'avevo letto, voglio ampliare altre cose, però non è che non entro a salutarvi, vi ascolto. Ieri quello mi ha girato con le balle, perché come diceva Marco, capite? Alla Teloce ci sono due persone che mi arrivano tutte e due, perlomeno una non c'è più, mi arrivavano tutte e due con lo stesso segnale, Gian Maria, la buona anima di Mario Mauro. Altre persone non ce n'è. prendo dalla veloce in giù, il primo sei tu, che sento, e sei 9:25. Questo segnale dalla veloce, con questa via strana, questo padre che era CB, eccetera, eccetera, 9:40. Dopo l'ascolto voglio sentire cosa si, siccome mi sentivo un po' così, allora sono entrato, no? Ho già detto a Marco, alle 10:15 di notte ho ricevuto un messaggio, mi hai scoperto, e ti ho scoperto sì, a pigliare il burro, tenere a Milano, capito? Quello è il genero di un mio carissimo amico, marito della figlia, che sono venuti in vacanza, appunto, ed è qua vicino. Noi arrivavo a 9:30 in via Grazia delle D'Alta, perché sono andato a mangiarmi le pizzette, dico la verità, e mi sono fermato lì. Mi arrivava a 9:30 lì. Arrivavo abbastanza forte, ma l'ho intuito che praticamente era in qualche zona alta, perché c'era praticamente altra gente, che insieme ad altra gente che magari avevano passato il microfono. No, che lo consigliavano soprattutto, perché stavo 2 ore a rispondere, quindi proprio, già sono belle cose, non è successo niente, ma io purtroppo mi piace parlare in faccia. Capito già, quindi ho fatto la diretta da quest'anno, dal 1 gennaio, no, dopo 40 anni, finito, non è più. Parlo solo, anche perché è un controsenso, io pago per la mia attività materiale 5 euro, per la CB devo pagare 12 euro, che hai un apparato di debole potenza, quello che dice la concessione, con un uso molto ben preciso, eccetera, quando per 5 euro io devo spaziare da 0 a 30 mega, cioè da 0 a 70 mega adesso, non più, perché ci hanno dato anche fino ai 6.000 adesso i 70 mega, quindi i 4 metri, perciò è un controsenso. Vabbè, okay. Vai a vedertela Marco, dimmi se ti piace l'FTDX3000 ultima generazione, analizzato di spettro, una macchina da combattimento. Sono rientrato, bella radio. Non mi ero sentato, non capivo di ieri, ma quello che è entrato dal baracchino di un altro ti ha seccato. Sì, perché io quando sono ascolto sento queste cose, mi gira un po' il PD, te l'ho già detto, no? Quindi ho detto, va bene, ok, auguri, allora. Era qua vicino, a casa di un amico molto comune che anche Gianni conosce. Magari si notava che quando chiedi di una cosa ci stava un po' a rispondere, quindi magari è consigliato, no? Ma non ha detto niente, non ha offeso nessuno, quindi anche se sono così un po' guidati da un altro, no? Non ha fatto niente di grave, dai. No, ma era veramente continentale. Bella voce, non come i terroni sardi. Comunque il continentale già lo so, assolutamente, ma neanche io l'ho offeso. Ho detto, non mi sembra che stai parlando alla veloce, perché il segnale è molto alto, comunque. Va bene così, ciao, infatti Vito non mi sono mai presentato. Proprio per non dare molta, molta importanza alla cosa. Capito? Ascolta, la radio come va di questo 140, bene? Ma questo qui è quello che è cambiato la fase. Interruttore, sì, solo l'interruttore, ma ho passato le 3, le 4 me l'ha riportata. Sì, solo l'interruttore di sessione originale, di suo, non c'è un problema, ed è un altro, venivo a Fabrizio. Sì, questo è il 140, non va bene come lei. Ma microfonicamente l'hai tirato? Nulla, non è stato fatto niente di nulla, niente di nulla, Mickey Gain è sotto la C, guarda, te lo sollevo, te lo metto a manetta, ecco qua, adesso praticamente è tutto a manetta, non distorce, vabbè, tieni conto che io ho una modulazione molto particolare per il gimbal, il microfono è MC60, tra l'altro l'MC60 60 ultimo nato, nuovo nuovo, sto usando quello, proprio questo è il 140 con, non è stato nulla, è stato aperto il tappo di sopra per dare spazio, ho fornito a cambiare il tartino e basta. Andava bene. Il tasto ce l'avevate nuovo? Sì, il tasto di un altro 140 che avevamo demolito. Ah, ho capito. Quindi l'unica cosa, diciamo, a seconda mano è quella. No, neanche a seconda mano, perché proprio nuovissimo, non si vede neanche, è lucido, perfetto. No? Poi sono dei tartini particolari, che l'interruttore è all'interno, quello che tu vedi grigio è un rivestimento, capito? Quindi è proprio nuovo, nuovo, nuovo. Sto dicendo, è nuovo. Nuovo di pacca, era dentro il nylon, dentro la sua scatola, dentro tutto impacchettato, non ce lo fa niente. Quindi c'è anche le istruzioni. Istruzioni, premia, italiano, inglese e francese, il cavo sulla alimentazione non è mai stato usato, l'MC43 è dentro la busta con l'elastico, e una bustina con porta fusibile, connettore di riserva, connettore DN10 mi pare, DN9 per l'attacco dietro per il computer, e sto dicendo che è uscito dalla fabbrica. Io portavo a casa, se 800 io. Ma manco ce ne aveva 400 per lavoro. Che mano che... Avanti, lì, sì. Diplome. Mio Antonello senza HF, vendilo Antonello, che dobbiamo andare in 45 metri. Antonello ci può tenere anche quello che ha. Non lo vuoi, basta, a nessuno. Questo è comprato nuovo. Non sono mai state proprio le vite, le ho tolte, le abbiamo tolte per cambiare l'interruttore, mentre l'altro invece che doveva dei motori di Alghero, nuovissima anche quella, però c'è un problema di alimentazione, stiamo aspettando dei pezzi, se riusciamo a trovarli per farlo andare, ma questo proprio, questo era dentro la scatola col nylon, non è mai stato usato. Buonasera Capri 2. Un lavamano, una pala e un picco, il tacco vuole mi clara, fai la vita, vai, una pala e un picco le bocce là, hai piccato, faccio un buco in capo, cos'è Gianni, scusa che stavo là, non controllo, cos'hai detto? Non lo sapevo, barato. Sì, c'ha quattro strumenti, manopolone centrale, poi tre manopoloni a destra, tre manopoloni a sinistra, è un bestione, è 30x80, stai attento, 30 alto per 80 lungo. Forse io con Walter sono il primo che l'ho visto quella palizza, perché l'ha scartata davanti a me uno. Ed è forse proprio quello che c'ha Claudio, se sa forse, quello che c'ha Claudio lo vuole guardare a me. E non l'avevo preso perché avevo una manopola che girava tutta storta. E ho detto, no, dammi l'altro, e non me l'ha voluto dare. Se no me l'avrei preso io, capito? No. Ti caghi per queste cose già. La manopola, il giorno che me l'ha dato a me, Daniele, sono andato da lui e ne ho preso quella giusta, capito? E me la sono attaccata. E lui l'ho messo quella vecchia. Facevo le volte, come fa lui, no? No, già abbiamo visto. Ah, tu lascia che è morto. Ma mi gira i bimbi. Gli gira tutta la rendotta che è rotta. Ah, ma è quella lì. Capito? E lui intanto la tiene lì ferma e non ci vede. Io la devo usare, devo stare in questa manopola che gira tutta la rendotta. A posto, nulla. Tutta bella lucidata, messe tutte le viti nuove davanti. Perfetto. Gianni, tu non hai idea di cosa fare con la radio. Non ne hai idea. La radio sul mercato, proprio sul mercato europeo, perché la radio americana, non te la danno meno di $300-350. E la matte si cosa? Chi è? Sì, l'ho visto già, l'ho visto più di una di quei macchini. Mi ha una ricchiata. Oppure ne ho conosciuto. c'è la DAB, non il DAC. Richinusa la preferisca di fare il birra, non venne, né. Per me Richinusa è una delle migliori. Hai visto? Poi ci sono quelle da prezzo che le birvi solo perché costano poco, e poi di sapore, buh. No, costano, oh, ma sono buone lo stesso, c'è quella che vede lì, quella che ha limone, che buonissima da dire, sembra limonata, e va bene lo stesso. Il limone non l'ho mai bevuta, lo sai, ce l'abbiamo anche noi, ma non l'ho mai bevuta. Quella me la bevono tutti, quella, anche gli assimi, perché c'è più limone che birra. Così? Sì. E va bene perché è sitico. Allora, coglioni. Male, come prendi qua? No? Tappa, volevo dire a Gianni. Galaxy o Petrus, come li vuoi chiamare, stazione in base, erano le classiche. Dentro alla fine c'è la solita scheda IPT3006 e in realtà è tutto buccia, amico, quello che c'è il resto. È grosso da imboscare, in caso di controlli delle scomposte è difficile da imboscare. Lo so, ma anche l'occhio vuole la sua parte, è la strumentazione chi la lascia. Il frequenzimetro e tutto il resto, no, è bello, a parte che il fatto che abbia spazio non è un difetto, anzi, tipo far piazzare un lineare interno, eccetera, eccetera, c'è molta gente che l'ha modificato, l'ha fatto una bomba, molto se c'è proprio una bomba, io ho sentito uno su internet modificato, su YouTube, è allucinante. E se c'ha il beat secco, c'ha tutto modulatore, gli hanno messo lineare interno, hanno truccato in tutte le maniere. Eia, vabbè, io prediligo da sempre i veicolari perché sono più pratici, li porto in macchina. Sono piccoli, eccetera, vabbè, tanto alla fine mi solita pasta. La storia è questa, in macchina si mettono i veicolari, in casa si dovrebbero mettere le stazioni in base, per il mio punto di vista, poi ognuno fa ciò che vuole, si può adattare le basi in macchina e via dicendo, ma è così, la regola è quella, che in casa si dovrebbero mettere le stazioni in base. Nemmeno la tua Vespa è originale, quindi puoi buttarla via, non vale più nulla. Beh, ma c'è un modo per farlo uscire meglio, scusa. C'è chi fa competizione con gli apparati come con le moto e con le macchine e c'è chi invece si accontenta di averli mogli. Poi dipende sempre dalla persona, se la persona non le piace la potenza e non gli interessa fare queste cose, li lascio normali. Però ci sono persone che fanno a gara proprio su internet, se ne vedono state su YouTube, che modificano apparati, roba del genere, a chi esce più forte. E quello che esce più forte sul canale 45 d'estate è quello che va avanti, quello che più basso rimane indietro di tutti. Questa è la legge. E così in basso. Ecco la HB23. Lascia fuori. Adesso è aumentato, te lo sai ancora. Ciao Capri 2, ben entrato. Sto facendo una piccola modifica qui, alla stazione. Ne riprendete voi. Buona stazione. Attenzione, binario 45, ovvio. Buonasera Lucrezia, buonasera Lucrezia. Ciao Gianna Landini, buonasera anche a te. Risorto, sì. Risorto voi. CDV. Dopo la concessione, c'è la consulta già. Vediamo la sputata quando ne ho voglia. Vediamo, fin là forse. No, andato, non si usano neanche un bel po'. Come ieri sono entrato e c'era Marcolino, ma non. Ma anche non mi attira più, sono sincero, non c'è più nulla, no? Sto morto, morto, morto. Cappa. Avanti Claudio. Sento molto. C'è du molto, sì. Dai. Va bene. Comunque già ne capri due, per farti sapere, io la Camio 23 non ce l'ho più. Insieme al Saletta, l'ho regalato a Giulio Rolla, la Camio 23 e il microfono Saletta, capito? Quella che ho di 10 metri, sacro, non è un baracca. Sì, vabbè, no. Diciamo per posizione. Ho staccato anche la mantella. L'antenna è attaccata una qua, sono tutte e due attaccate alla T250, capito, quindi non si vedono neanche, ma l'antenna direttiva, quindi c'è quattro attacchi alla T250, no? Uno su 7004, IC 7004, e due sono una su 140, uno su 430, adesso l'altra quando arriva l'altra radio la metto sopra il DAC, quella è una base oramai. Zodiac, tutti gli altri li ho conservati, li ho messi dentro l'armadio, anzi Zodiac lo voleva Marco, ma non glielo do perché quello è un regalo che mi ha fatto fiducia, quindi non glielo do. Come si trova dentro l'armadio, ho lasciato solo il DAC come base, poi si assomiglia a un amplificatore, quindi non c'è il microfono attaccato, c'è il tappino, non c'è niente. E lì ci metto il FT 3000 DX per me il prossimo mese, ordinato. E boh, abbiamo finito. Così è. Avanti Marco Cundò. Cundò. Dalla scenario. Riprendi Pomponi. Sono scalzo, c'è il pavimento che sta bollendo, capito? C'è il pavimento che sta bollendo, sono scalzo. si sta a Dio, solo per il culto, va giù in vedi, buddendi, tormenta il caldo che lo caldo. Capo capo. E beh, Antonello, e tu invece ce ne racconti. Un po' fresco c'è in cameretta qua, credo che c'è la finestra appena aperta, che ce l'ho appena fuori per poter utilizzare il computer. Perché adesso sono raffreddato e basta, per il momento ancora. Succede che fammi salire a scuola e scaldarmi stanotte, così si mette a fianco e mi fa come lo scaldino. Abusivo! Perché abusivo? Perché ti muove Simone Fallini? Era influenzata, ma scherzando, amico di casa, che già c'ho letto qui in cameretta. È influenzata, se non mi fai anche a me. Adesso ritorno da di tutto. Lui era sul posto di camera per fargli bene. Abusivo del wifi. Ah, ci sono anche quelle antenne che pompano poco ma costano pure, grande, più grande dell'antenna della TV rimane. Wifi costa 200 e qualche cosa, viene. Se una cosa del genere, cazzo, fino a molte ore arrivo, cazzo. Ma si può prendere la connessione dagli altri computer per legge, lo sapete voi? Ma le leggi sono fatte per essere infrante. Basta che metti le, come si chiama quella fare, Marco, che sblocca tutti i codici di tutti i computer, basta mettere quel programma, le vedi, metti wifi vicino a casa tua aperta. Ce ne sono, vicino a casa c'è quello della pizzeria, sempre aperto, c'è quello dell'ultimo piano, grazie, si chiama Ruda e aspetta com'è la passo, la casa Ruda. Hai visto, ha voglia, che usi il coso, il computer grafico, come faccio io, invece sono una cazzo d'hotel, qui c'è una Alice 356, che è qui a Carbonati, ma non deve essere in via cosa, via Gula Maffa deve essere. Perché segnale basso c'è? C'è segnale basso infatti, sì, però me la segna, quindi è distante, deve essere via Umana deve essere, non via Umana deve fare quello, via Gula Maffa. Però la mia ex ragazza. Sì. No, quella è per il film. No, un'altra, quella abitava in via Umana. Ragazzi, la modulazione è cambiata, vedete un po', 1, 2, 3. Cazzo! Ti ho pigliato fuoco. Ho detto, prima premesse, dopo parlasse. È cambiata la modulazione o no? Boh, avete parlato in tre. Fai la domanda specifica e dire a chi vuoi essere risposto. Uno per volta. Gianni, la modulazione rispetto a poco fa è cambiata. Per me sì, è più forte. Più forte? Boh. Vediamo se c'è Capri 2 che è più distante. Attento Capri 2. Allora, Gianni, che sei più distante, dai un'occhiata allo smitter, guarda la differenza da così a così, cos'è cambiato? Ho capito, là. Ho messo linea retta per prova a vedere se si è sciolto oppure no, sembra che vada, credo siano un'ottantina di watt, forse anche meno. 50, là. Marco. Capa Claudio. Allora, va da 9,25 a 9,30, quindi l'incremento è buonissimo per essere in città. In più ti aumenta anche la modulazione, quindi la radio è molto più forte, molto più chiara. Cambia anche l'effetto presenza, va molto bene, l'accoppiamento è giustissimo. Sì. Poco fa mi stavi dicendo che base, aspetta che stacco, se no. con l'altro stavo modificando qua la base, no, non parlavo di base, forse di apparato intendevi, no, questo è tipo il Galaxy Pluto, anziché nero e con lo sfondo perla e tutto cromato poi, sempre con come la il Pluto MK1 con la potenza non regolabile. Sì, lo conosco quello. È una bellissima radio, ma io avevo l'Uranus del Galaxy Uranus, e l'avevo fatto Massimiliano, un grande della radio anche quello, qui non so se sarà fatta modificare, non lo so, va bene. Luca, tu cosa c'hai? Sempre la solita radio? Sempre, sempre. Ma è quella fuori là, l'avevi messa a posto per io. No, noi ce l'ho qua, Fabrizio, dice che non si può fare. cosa, una cosa bella quella, capito? Non è una cosa bella. La tua invece la fa di una tesi, già l'hai sentita anche tu. No, forse tu non ci dico, perché no? Per questo altro giorno, oba, oba! Deve essere che ho sbagliato il microfono col baracchino, perché ci aveva sicuramente anche il VHF veicolare, si vedeva, era più di 9 segnale. Oba, oba, l'ha detto 3-4 urli. Alla fine sono entrato, mi sono presentato, adesso mi hai rotto le balle, tu e babbo tuo, vedi che stai sbagliando il microfono, ma non te ne sei accorto. Vabbè, è un casino adesso. Su un forum, mi pare fosse radiamatori.it o Ari Fidenza, una cosa del genere. Un radiamatore ha sentito in piena banda amatoriale i due calciatori, no? Ci siamo. E gli ha detto cortesemente di spostarci, che quella non era banda, era banda amatoriale, non era banda da usare così, liberamente. Sai cosa gli hanno risposto quelli? Di spostarsi, che c'erano prima loro. Cazzo allucinante. Si sta capovolgendo la cosa. Vabbè, pazienza. Vai già. Ma quella è gente ignorante che non lo sa, magari, capito? Pensa che siano TMR o cose che l'avranno rifilati e sono convinti di essere nel giusto, capito? Non, sono ignoranti magari, dai, Mattia. Io anche l'altro giorno ho assistito a un questo qua dove c'era Antonello, dove c'era? I due Antonello c'erano, non si dentro, stavo ascoltando. Si parlava di sindaco, non sindaco, ma ancora non si tratta di fare il sindaco, di fare il presidente di nulla, per carità. Perché sono il primo che assassini ho difeso tantissimi, ma tantissimi, tantissimi. Tanti, nell'era che furono e anche ultimamente da poco, capito? Perché quello che tratta l'abbiamo già criticato. Alla prossima va a finire direttamente dentro, non si discute più. Ma anche stamattina, ieri sera sul tardi, perché c'è una spedizione antartica di 12.000 km dove ci stiamo provando un po' tutti. Oggi non sono riuscito perché c'era il mondo che chiamava. L'unico che ci è riuscito è Marco, ho provato anche Walter e non ci è riuscito. Adesso domani ci riproviamo un po' con l'amplificatore in 10 metri per vedere se riusciamo a collegare questa spedizione antartica che manca da 25 anni. Nel momento in cui noi facciamo sempre riferimento alla nostra frequenza monitor, un bambino, allora io posso capire che è un bambino, quindi vede una cosa lì, sul tavolo la prende e si mette a parlare, pronto. Ma il padre, il genitore ne ha questo bambino, l'abbiamo detto un paio di volte, ma tuo padre c'è, lascia quel microfono, guarda che stai disturbando, non puoi parlare, tanto continuava a parlare, ma dico un bambino, che è un bambino, che si può anche tollerare, ma il genitore ne ha un bambino? Magari lo fanno senza ordine, cioè se ne fregano, magari rischiano di bruciare anche l'apparato del padre, metti che sia senza antenna, loro non lo sanno, premono e fanno danno. A proposito di ascoltare roba in aria, mi arrivo a Santiago 5, sul 19 Alfa l'altra volta ho sentito una specie di babyphone in FM, no? Si sentiva una signora piangere, una signora grande penso, anziana, che piangeva, il figlio che la sgridava oppure insomma che parlava a voci messe per dire mamma smettila, guarda mi ha fatto una pena, deve essere qualche signora magari con tipo Alzheimer, cosa del genere. E il figlio non ne poteva più, era a voci messe, quella che piangeva, mamma mia, in FM, sul 19 Alfa. E anche sul 15 c'è. Come, Antone? E c'è anche sul 15 Alfa qua Carbonazzi. C'è un telefono la mattina, c'è una signora che usa il telefono. C'è il telefono su quella frequenza, io 7920 qua dico. Siccome questo è il Vox, se non parla nessuno non si attiva, ma quando parlano si attiva subito, ma il tipo proprio non poteva più, basta, smettila di fare questo, so che cosa, mamma mia, lì poi certe patologie sono difficili da gestire, quindi non ci sono istituzioni che possono aiutare. Antonello già mi ha capito. Io ho capito. Quando abitavo in via di Tendo io, eccetera, avevo 70, mi divertivo parecchio perché c'erano tanti di quei telefoni in conto, se mi avvicinato mi facevo impazzire, ragazzi. Figurati, un giorno l'avevo mandato un paio di... Una ragazza l'avevo mandato in diretta, e avevo attaccato il scritto FM alla cosa, e mandavo in diretta, e tutto si racconta. Chiudi, avete appena fatto, ci sentiamo nella cosa, nella radio, ci stanno, c'è quello sentendo. Sì, ascolta, Claudio, tu ce l'hai presente il TRC-10, quell'apparecchio militare? Sì, ce l'avevo regalato a Roberto Quadrato, io. Allora, l'ho avuto anch'io. Andava dai 38 ai 54, 52 MHz. Ho beccato una persona, una vicina, che parlava con gente di famiglia. Mi sono messo in trasmissione alla ricezione del cordless, no? Adesso non ti so dire quale sera, 46 o 49. L'ho chiamata per nome, è quella di Mazza Così, e la mica ha sentito quella voce, chi era, che ha parlato? Già entra, sì. No, Giulia che entra. Avanti, Gianni Capri 2, riprendi. Sì, c'era un imbecille che traslava. Nel momento in cui stava traslando io ho girato la direttiva VHF, quella non perdona. Ho filtrato subito la zona e ho segnalato a chi dovere, poi a quanto so, sembra che l'abbiano girato e filtrato. Ma non è, cioè, cerchiamo di capire una cosa, qua nessuno vuole dare ordini o diventare più grande degli altri, assolutamente, è una cosa di principio, cioè si tratta di frequenze dove sono proibite parlare chi non è in possesso di licenza di patente, punto e basta, e lì ce ne dobbiamo fare un'idea un po' tutti, no? Non è che si va lì a disturbare affari, io vengo qua, mi accettate per quello che sono, faccio due chiacchiere e basta così. Purtroppo a me farebbe piacere accettare tutti voi dove vado io, non è possibile, basta, non credo che uno debba sempre continuare a infierire, a mettere il chiodo dentro il muro quando è già entrato, è una cosa che non va bene. In questo periodo se ne stanno vedendo e sentendo di tutti i colori, quindi a un certo punto, ripeto, a me non interessa, non vado a rompere scatole a nessuno, però bisogna stare molto attenti, perché nel momento in cui si fa una segnalazione alla sezione competente, la sezione competente tira le somme, è chiaro che poi partono i controlli, per colpa di qualcuno, se poi ci piangono tutti, non è che i cibi di Sassari devono dare la colpa a Claudio perché era l'amatore o a quell'altro perché era l'amatore, no, noi siamo al nostro posto, quindi anche gli altri devono rimanere al suo posto, questo è il concetto, così è già nel più. Io sono d'accordo con te, io ho sempre ascoltato, non sono mai entrato, anche se tante volte mi è venuta voglia, qualcosa, non sono mai entrato a salutarti o a fare, no, assolutamente, so che la regola è quella, essendo più vuole posso fare ascolto ma non posso entrare, punto. Ma come ti ho detto, c'è un ragazzo, io non riesco mai a capire chi sia, che tutte le volte, quasi sempre, mi saluta quando mi sente. E dice un Gianni, dice ciao Claudio, Claudio dice un ciao Gianni, non succede assolutamente niente, questo è un rispetto reciproco, capito, di persone che si conoscono. Però il concetto di quello che ho detto io è diverso dal salutare una persona o da andare a disturbare proprio un'intera frequenza, capito? Ripeto, oggi mi si stavano girando veramente le balle, tre volte glielo ho detto, lascia il microfono bambino, lascia il microfono, vai che non puoi parlare, stai disturbando, signore, ciao signore, cazzo, non ci vedevo più, mamma mia, come ero incazzente. Ma non c'è tuo padre lì vicino, qualcuno, cioè si vedeva, non era un bambino di 3-4 anni, non si fanno queste cose, ma un bambino colpa non ne ha, la colpa ce l'hanno i grandi, capito? Sottolineo i grandi, perché certe cose vanno impedite. Mia figlia, quando era piccolina, io ho sempre avuto più o meno, questa è la più grande che ho avuto in sala radio, ma sempre organizzato bene, si sedeva vicino a me, non ha mai toccato niente, nulla, diceva solo papà fai cicu cicu, e io ripetevo cicu cicu, ma non è che si metteva a fare, a schiacciare il microfono, niente, io non ho mai spento la radio a casa, con mia figlia piccola, mai, perché è stata educata la piccolina, non toccare lì perché te ne taglio le mani, punto. Vabbè, i bambini già lo sai come sono, io quando ero là fuori una volta Marco l'aveva acceso, te lo ricordi, sapeva come guardava attentamente, come facevo io, aveva acceso perfettamente, io tra l'altro ero in macchina, in ascolto, e lui diceva papà ci sei, guarda che pranzo è pronto, ma la pasta la buttiamo, questo e quell'altro. Alla fine ho detto Marco spegni subito la radio perché se no quando vado a casa è subito assurato. Non ha fatto niente, ha parlato con te, sei il padre, non ha disturbato nessuno, non è una frequenza che disturbi, sì, rompi le palle a qualcuno perché magari non hai il tempo e non sei preparato a ascoltare e poi pigiare o pigi, però io una volta l'ho sentito Marco, aspettava che tu finivi di parlare e poi lui parlava, quindi già sapeva come fare, ma Ghicchio sovramodulava, si metteva in mezzo ai nostri discorsi e siccome io lo ricevevo molto forte e c'era Marco col portatile, erano un po' tutti spassi con i portatili per questa spedizione, stava iniziando a rompere le palle, tutto qua. Sei capace che l'abbia acceso anche lui, mica il padre, forse al lavoro, sa, le madri a volte non ci pensano e ne approfittano i bambini poi sono incuriositi dal fatto che sento gli altri parlare, quindi è normale che lo facciano tutti, anche Emanuela all'inizio erano incuriositi, poi adesso non ne frega più nulla, né a uno né all'altro. Oh Gianni, ma cosa ne sarà di tutti i nostri apparati quando creperemo? Li butteranno via sicuramente, o li venderanno, ci penserà come a produttore, ci penserà Giampaolo, poi ci penserà o Claudio o qualcuno di quelli che hanno più in giro a venderli, per darli alla vedova. Che Capri2 ne ha un bel di apparati, se non piacciono i figli finiranno anche quelli in vendita, ma quelli sono vintage, non c'hanno mercato. E me ne accorgo dai discorsi, quando vedono un'antenna sulla macchina ci pigliano per coglioni, capito? Scusatemi il termine, ma lo volevo dire. Invece sembra che il computer sia l'unico mezzo di comunicare, però quando ci sono poi calamità naturali grosse che saltano tutto, salta la rete tetra, saltano i cellulari, ci sono i radiatori a salvare il sedere a tutti gli altri. Sì, il capo c'è un attimo di bianco, no ma alla fine poi sono cose che si possono tranquillamente vendere o dare anche beneficenza, non è un problema quello. Dove stavi andando? Già ne ho più rotte stamattina verso le 10:15, che era? A Budimudi ti incrociare. Stavo scendendo da Stintino, oramai io ho perso il baracchino, ho comprato la macchina professionale perché ho sempre avuto la passione della fotografia. e quindi adesso mi sono aggiornato con quella digitale, mi sono comprato la macchina professionale e sono andato a fare un po' di foto a Sentino, mi fermare da mosso. Ma ti devo dire che non faceva scendere dalla macchina perché il vento spingeva lo sportello e non riuscivo a scendere in nessuna maniera. Poi quando sono andato per fotografare via La Pelosa c'erano le onde che sbattevano lì alla torretta ed era un bello spettacolo da fotografare. C'era il pulviscolo praticamente dell'acqua che spruzzava, si faceva la luce proprio. Ho fatto un paio di foto lì però con la macchina un po' riparata perché se ti rovina anche la macchina San Siri. E poi sono salito su a Roccaruia e ho fatto le fotografie dall'alto, c'era anche l'arcobaleno e ho fatto un po' di foto così. Mentre incrociato per lampeggiare stavo rientrando da Trinità, però non mi hai visto sicuramente, fiorino bianco. Va bene, avanti, con pugno, riprendi, fai girare. Aspetto che non un'antenna 1, 2012, non la baracchino su internet, aspetta un secondo. Non ci ho fatto caso che la scelta l'avessi usata. Poi io ti ricordo con quella rossa, bianca, non mi dice nulla, non mi sarei manco girato. Vabbè, ciao, mio figlio ci sta il suo lavoro. No, non ce ne sono solo due, c'è un altro, me un altro capo squadra. Bianca è nuova, la mia aveva già superato 100.000 chilometri, capito? Quindi non è una volta nuova, già l'avevi visto. Scritto, ma prima o poi ce lo mettono. Ma cosa stanno aspettando? La cambia di vita? No, questa non cambia, questa prosegue. Questa prosegue perché c'è addirittura anche, adesso gli hanno affibbiato anche il Guinness, quindi figurati, se se ne va, lui ha il canone Roma, questa è venuta qua per macinare denaro. Sta guadagnando poco soldi, siamo parecchi adesso, siamo più di 800 solo dove sono io, più altre 7-800 in Albanoa, perché c'è più di 100 milioni di euro di lavori da effettuare ancora, e in più ha vinto anche un'altra, la regione gli ha dato tutto il sistema del Covinas, quindi ha voglia di travagliare, Gana è che vivo. Io non faccio più ganja. Lo so. Adesso cominciano a pesare gli anni. Cominciano a pesare qua. Diciamo che anche per me è così. La mattina quando mi alzo sono un po' troncato. Poi già mi riprendo durante la giornata. Fuori di lavorare mi riprendo. No, non ce la faccio più. Non faccio più gana proprio. 100 km al giorno, senza poi sali e scendi alla macchina, prendi qui, prendi là, leggi lì, leggi là, hasta con gente che ne comprendi meno di zero, e quindi arrivi a casa che oggi sono arrivato a casa presto, ho visto a te, erano 10 qualcosa, sono uscito da 6, figurati da luglio. Fare in fretta tutto il giro di controllo, firmare i registri, controllare tutte le giacenze eccetera, e poi mi sono rientrato, non c'era un freddo da morire, proprio per sedermi in radio e mettermi a fare qualcosa, invece c'era un casino nero, quindi ho rinunciato, non per stare lì a consumare corrente, quando intanto c'è gente più forte di te che ti passa sopra e devi fare la brava, non c'è niente da fare. Avanti Marco o Luca, se vuole riprendere, non so. Ehi Luca, è in fase negativa, da si vuole vendere tutto, perché qua alla fine rimaniamo a parlare in due. Cosa ti volevo dire? L'altro giorno mi è passato Gianni a 5 metri dalla mia macchina, mentre modulava, non solo l'ago è andato oltre la scala graduata, ma si è incollato a fondo scala sulla plastica dello smitter, allucinante. Dove? A dove? A Porto Torre. questo? Lui stava tornando da lavoro, io lo stesso stavo per tornare. Mi ha inchiodato lo smitter, proprio la lancetta incollata sulla plastica a fondo dello smitter. No, io come ho detto Gianni, io piccolo e non avevo qualcuno con la KV23 che ho regalato a Giulio, con Savelta, che insomma, fa sempre grandi cortesie, non vuole mai niente, quindi con un portatile che c'avevo, tutti così, un po' tutti gli altri radio, il 5024 che praticamente tocca in base, il che sono andato a KV2, ma ne avevo altri, lui ha dato il console primo, io ho il console 5 dentro l'armadio, c'ho lo standard, ne ho insomma l'ho tolto tutte le macchine dentro l'armadio, ho lasciato solo il DAC, il telefono conservato, l'MB+7, l'MB+5, l'MB+4, ce l'ho tutte e tre qui a letaggio, anzi non sono quattro, mi manca l'MB+9, insomma ho messo tutto a parte. Solo HF e basta, perciò quando devo entrare a fare le chiacchiere con voi e salutarmi eccetera, entro 430 o 140, non me ne affitti nulla, non me ne affitti, manco un po' l'anticamera del bit, anche perché manco la telefonia, non tolta, quindi non ho niente da che stare preoccupato. Salutarvi entro, non lo ascoltare ascolto, non c'è problema, se ne approfittate per far scaldare un po' questo 140 per vedere se difettava, se ma invece perché si sente come hai detto tu mi Marco, quell'odorino proprio della componentistica che ancora si sentiva quando era nuova. Amo quell'odore. Invece questo periodo, io adesso sto usando questo perché lo voglio rodare ben bene, vedere se c'è rifiuti eccetera. No, io ho voluto prendere apparecchi tipo Superstar nelle varie versioni perché hanno i componenti classici, no? Proprio la scheda madre ha componenti classici, poi al limite qualche micro schedina c'ha componenti SMD, però ormai questi sono gli ultimi con i componenti classici, ormai non ne troverai più, tutti gli SMD stanno facendo. Il delinquente Notto non solo non ha spedito l'apparato alla Midland, ma non l'ha neanche riparato, capito? E l'ha fatto con varie persone. Non c'ho tempo, abbiamo le fiere, lo oscilloscopio è rotto, capito? Caro Franco. È vero, Montagnani. Ehi, me l'ha ritornato rotto, ho mandato la lettera al CTE prima, gli hanno detto che da loro non è mai transitato nessun apparato a quel nome. E allora lui sai cosa ha risposto alla CTE? Ha detto che buongiorno, abbiamo trovato, dice, l'apparato del signor Pistitta in una sezione sbagliata del laboratorio, l'abbiamo riparato e glielo spediamo oggi stesso. Infatti è arrivato come glielo spedito, guasto era, guasto è tornato, e guasto è lui. Non sei mai aspettato a Franco. Perché è una persona che dei bracchi non era tutti nulla, solo che lui essendo concessionario di quella casa lì deve rispondere, però risponde in maniera sua. Tu immagina, ti ho ordinato l'FT3000, ne abbiamo 26 oggi, il 15 mi pare, il 14 di gennaio, abbiamo partorito tutto, cosa volevo mandarle eccetera, va bene, l'ho bloccato, praticamente devo andare con 1000 euro, l'ho bloccato, perché l'avevo costato 2300 euro, l'ho bloccato, ho detto vabbè, appena arriva me lo mandi e mi contrassegno per differenza, ma va bene, sono problemi. La settimana scorsa mi ha chiamato, mi ha detto guarda Claudio che c'è un problema, che problema c'è? Mi ha detto purtroppo la IAESU ci ha mandato il fax a tutti i rivenditori che c'è l'aumento del 11%, a me dell'aumento del 11% non me ne ha fatto manco balle balle, proprio così gli ho detto, perché poi quando parto chi c'è dietro la cornetta non me ne frega niente. manco per le palle, e ti dico subito perché, perché io ti ho guadagnato 1000 euro bloccando la radio con quell'importo, quindi non mi mandare a me il contrassegno di 150 euro in più perché ti rimando la radio indietro. E dai, adesso c'è, non mi mandare, gli ho detto, la radio con 150 euro in più perché ti mando la radio indietro. Capito? Ancora mi deve dare la risposta. Purtroppo avevi ragione, è scorretto nel trattare il cliente. A lui interessa solo vendere, vendere, vendere, punto. Un altro apparato identico al mio, un'altra persona, lo stesso gli era tenuto mesi, gli era ritornato, non l'ha spedito perché il tipo ha fatto la stessa cosa mia, ha chiamato la CTE, mai spedito l'apparato e mai aggiustato, gli è tornato uguale se non peggio di prima. Un'altra persona, un Superstar 6009 di quelli nuovi, ha avuto un guasto e lui appunto ha risposto che non ha fatto tempo, che doveva fare andare alle fiere, eccetera eccetera. È un editore scorretto, mi dispiace. Io se prendo roba da lui si guasta, se Midland la mando direttamente alla Midland, se Gintec la mando direttamente all'Intec, ma presso di lui non deve passare più niente. Guarda, con me l'unico indicatore che ho avuto, perdonando gli altri, è solo questo, perché io comprai da lui il DS 350 per 800 euro, gliel'ho rimandato per 800 euro, per cui sa come ho tratto la radio, e quindi metto, mi fido ciecamente di te, mandamela che te la ritiro quando l'hai comprata, lui o me la tengo con il laboratorio oppure la do a qualcuno, insomma, così ho fatto, l'ho mandata e ciccio. Quindi 1000 più 800 sono 1800, devo mandare, devo fare la differenza per contrassegno. Però fedelo voi con queste 150 euro qui e là, a me con 150 euro mi esce un altro SM20, cioè un SM20, un MD100, capito? Un microfono a tavolo della IAS, che io l'avevo dato, l'avevo venduto assieme all'FT950, perciò è un po' furbetto, però. Se lui mi mette da 150 in più, io lo rimando dietro alla radio e vediamo cosa succede. E c'è quella pitola, capito? Perché non è che la vendi così facilmente o sono nominative gli ordini, perché io ho ordinato direttamente dalla IAS, perciò lui siccome è referente, arrivano direttamente a lui e lui le spedisce ai vari interessati. Solo di bianco, là, che vuole in bagno, se come al suo. Va bene, non ho prenotato perché non ti metti di pappagallo. Ho il catetere. E la prostata, me. Ok, grobe. Allora, mi sto ascoltando, Oh, tutto ok. In ordine, ciao anche a Marco e a Gianni, ma c'è anche cosa, Gianni se non sbaglio Capri 2. E se non è caduto la sedia, sì, Capri. Va bene, si è abbastanza tutelato, dai. Sì, amianto, però io non posso andare in causa per un apparato che costa 150 euro o 200. Allora, ti spiego. Questo mi ha fatto aspettare 8 mesi e una settimana. Non l'ha spedito la Midland e non l'ha neanche riparato. L'ha fatto a me, l'ha fatto un altro, l'ha fatto un altro ancora. Altra gente si è lamentata, eccetera, eccetera. Quindi a vendere è bravo, a fare assistenza proprio non ne ha voglia. Ma poi sai, anche la voce attraverso i forum gira su internet e alla fine hai smesso di vendere. Aspetta che mi stanno alzando le stazionarie, non so perché. No, magari vendere no, perché lui magari ha certe cose che altri negozi non hanno, piccoli oggetti, piccoli o anche grandi oggetti. Però non bisogna passare per lui per l'assistenza, si spedisce direttamente alla casa madre per riparazioni. Questa è la cosa migliore. Io non lo sento proprio, gli sto parlando da sopra sicuramente. Purtroppo è passato un anno, sì, prima funzionava tutto quello che vuoi. Questi SMD non voleva aggiustare nessuno, sono pochi che li sanno aggiustare veramente bene. I componenti sono talmente piccoli che è un problema, vabbè, però poteva dirmelo, non te lo so riparare, non te lo so riparare, lo spedisco alla casa madre. O forse temeva che io non gli pagassi i 30-40 euro delle varie spedizioni, 10 li ho spesi per spedirglielo, poi lui a spedire la Midland a 13, a ritornare da Midland a lui a 13 e a spedirla a me 30 euro, io gliel' avrei dati 30 euro, ma forse pensava che arrivassi a quel punto, no? Che non gli pagavo la spedizione. Si occupa lui della riparazione. incisione. Quello che non capisco è perché si debba passare per forza dal venditore per mandarlo in assistenza. Non lo so, esattamente non te lo so spiegare, però evidentemente c'è qualche business che loro fanno, perché passando sul rivenditore ci sarà una percentuale anche sulla riparazione, non lo so come funziona, non lo so, però rimane ai dubbi, questo è il senso esatto della situazione. Ci mangiano tutti, assolutamente. Io comunque con Franco ho un buonissimo rapporto, nel senso che qualche volta sull'Adonis ad esempio gli ho pagato due calvetti, perché c'è il calvetto sia Kenwood, ne ha tre uscite. Preso Kenwood e Icom e mi ha mandato solo quello Icom e non mi ha mandato quello della Kenwood che mi serviva. Mi sono attaccato e dice me l'ha mandato, non sono 10 euro e si del genere. Quando comprai l'850 arrivo qua, l'ho messo su al posto del combattimento, lo accendo, riceveva il segnale, trasmetteva benissimo perché mi riascoltavo, non si sentiva la voce, me l'ha mandato con la scheda audio bruciata perché quello è un digitale. Quindi capite, cioè queste stronzate, si è perso per stronzate, però in linea di massima ha avuto sempre con me un buon rapporto. Sentire queste cose un po' mi dà noia, perché è una persona abbastanza grande, è conosciutissimo, tra l'altro se si caga per queste fesserie alla fin fine non conviene né a lui né a nessuno, perché uno basta che lo sputtani, ecco lì che dal rivenditore numero 10 diventa rivenditore numero 0. Cambiamo subito i parametri, capito? Perché è molto importante che un rivenditore abbia sempre quel senso di ottimismo anche nei confronti degli altri. C'è un problema, dai, madre, non ti preoccupare, te lo sistema te lo rimando, anche se ti ha fatto pagare niente. Perché? Perché tu sei quello che compri. Tu mi dirai sì, però non funziona così, vabbè, però se è un venditore, fa così, perché io ne conosco tanti come DAE, IRAE che adesso ha chiuso, tanti rivenditori non si perdono in queste stronzate. Se ti serve un carretto te lo mandano, ma dai, il prossimo, quando compri qualche altra cosa ti includo anche quello, e ti tengono buono come cliente, tutto lì, capito? Proprio rotto, riprendi. È così, è solo tipo così, anche. Prima, quando io compravo la telecomunicazione, lo stesso, sembravano così gentili, così disponibili, mandavano le mail, guarda Gianni che abbiamo ritirato per dire degli apparati alla fiera, se ti interessano sono questi, i prezzi sono questi, mi mandavano tutto, eccetera, poi quando si è sputtanata la cosa, che si è diviso il tecnico dal negozio, non sono più andato a bere le cose, prima mi rispondeva il tecnico, no, Gianni che microfono vuoi, un Proxer, che attacco c'hai, Midland Plus, va bene, ce lo mando con quell'attacco direttamente, allora, ciao. Ciao. Dopo 3 giorni mi arrivava con l'attacco, come ci piace che attaccarli via, non ti fai a pagare nulla. Fallo adesso, fallo adesso, io te l'ho detto, ho preso alcuni microfoni, li ho ordinati, già testati, sia per Kenwood, uno per Kenwood, uno per Iaesio, uno per Icom, e mi hanno fatto pagare 10 euro l'uno, 30 euro di differenza per la commissione. Fatti il gongo, se non avevo detto la facevi qua. Vabbè, lì mi ha fatto in modo particolare, eccetera, eccetera, no, fatemi, mi hai fatto pagare, 10 euro al microfono, capito, 10 euro al microfono, vabbè, Anto, riprendita. Forse allontanato. E se mi dà il tempo, aspetta. Oh, Claudio, che quell'apparato lì, l'Albrecht 5008 che mi è tornato guasto, che poi è il clone del Magnum 257, è quello piccolino che sembra un autoradio, no? Di per sé non ha un difetto grave. Succede che la potenza, seguo in bene, la potenza in AM è calata da 10 watt a 2-3 watt oscillanti, invece in SSB è tutto a posto, da 20 watt pieni. Non è una cosa grave, ma lui non ha saputo fare niente, non ha spedito, non capisco. C'è qualcuno a Sassari che tratta roba in SMD? I tecnici? Pomponi. Come? Non capisco. Pomponio. Pomponio, vabbè, non lo denigrare, che già mi ha aiutato anche l'altro giorno, mi ha fatto un altro favore, se no non saprei come fare, perché io di elettronica so saldare i PL, ecco, e basta, e mettere le banane sui cavi dei baracchini di alimentazione. No, seriamente, a Sassari chi tratta di tecnici apparati SMD da aggiustare? Vittorio, c'è la stazione per poter risaldare e risaldare. Oh, credo che non ne trattassi di quella roba, perché di quell'apparato c'è lo schema, però comunque roba che scalda, eh. Allora spiego, a caldo da 10 watt, dopo 2 minuti scende a 2-3 watt oscillanti, quindi è qualcosa che quando scalda va in perdita, non so, cos'è, un transistor sarà? Un transistor o un come si dice, un non tanto i finali, i transistor, ma un accumulatore può essere. Quindi può essere anche un integrato. Come, Cla? Può essere anche un integrato. Ma quello che non capisco, come mai si abbassa solo in AM questa portante e in SSB dai 20 watt pieni? Penso che abbia una deviazione di potenza sullo stadio finale, c'è un controllo diverso. La prima radio che ha due potenze separate, una per la banda laterale, sono un sacco di HF che ce l'hanno, uno per la banda laterale e l'altro per la MFM. C'è un commutatore, un delle di commutazione che commuta praticamente, divide la potenza delle due sezioni. Bisogna vedere come è fatto dentro, chiaramente SMD è un sistema molto molto particolare, però Matteo Antonio Vittorio è abbastanza preparato su questo, non ci sono dubbi. Vabbè, gli avevo dato il Connex 4000 Echo, ha fatto un bel lavoro, l'ha allineato. E quindi adesso funziona ancora, era del 90 mi pare il Connex, se non ricordo male. Vabbè, vediamo, da, non gli voglio dare nemmeno troppe rotture di balle. Ok, ci vuole un po', non è che una prima volta io ho dato l'alimentatore PS50 che l'ho scoppiato e me l'ha messo a posto, per cui un alimentatore di vecchia data, un trasformatore. Come cose mi ha fatte, al suo lavoro, non è che lo fa gratis, non fa con i soldi, quindi il suo lavoro, il laboratorio non è che deve riparare solo televisori, riparerà un po' di tutto, quindi benvengano anche per riparazioni dei baracchini, c'era un tempo Massimiliano che li faceva, poi il laboratorio li ha chiuso, mi ha saputo perché sta facendo altro e quindi non è che ci sia rimasta molta gente, o lui o Massimiliano c'erano che fanno queste cose. Ehi, quel ragazzo sì, via Sabuia ci sono tutte quelle antenne lì, ma non lavora più lì lui? No, l'ha chiuso perché sta facendo altro, sta facendo altri lavori più grossi, fuori Sassari, quindi così. Non so se gli fa anche a casa sua, bisognerebbe contattarlo, dirlo. Senti Vittorio, comunque in ogni caso, cioè Antonio, il suo laboratorio è abbastanza, sia laboratorio che tutto il sistema chiaro, in grado di sistemare se non è un particolare integrato o qualche processore lì si dovrebbe trovare, se no si ordina dalla Midland. Cosa volevo dire? Comunque, come apparato questo Magnum 257 Albrecht è troppo rumoroso e terrificante, prende dentro insieme a neon tutto, è rumorosissimo in macchina, è già rumoroso in casa, in macchina non è parliamo. Invece questi Superstar 3009, qui questo Simili Pluto, anche il Magnum S45 HP è bello silenzioso, in macchina è un bijou. Io ho tempo di fumo, avevo sia il Superstar 3009 e il 7009, noi andavano molto bene, erano abbastanza silenziosi, abbastanza, avevano un riferimento di modulazione bella stabile, quindi non poi a prescindere da tutti quei veicolari che ho avuto, poi di più erano tutti base di quell'era lì, però funzionavano perfettamente bene, non avevano nessun problema. Proprio Roma, allora, vabbè, trovo un attimo, lavoro lo stesso, vabbè, già è presto, sono neanche le 11, ancora 10 minuti poi chiudo tutto, allora non anch'io, avanti già. Bene, dai, ti ringrazio che mi hai passato il mic, perché io sto chiudendo, sto un po' all'ascolto e poi faccio il correttivo definitivo. Vi saluto tutti cordialmente, mi ha fatto piacere questo. A non sbidere e non intendere. Ciao Marco, ciao Claudio, Gianni Capridue e tutti gli ascoltoni. Ciao a tutti. Ciao già, ciao, buonanotte, ci sentiamo presto, vai. Ogni tanto già entro a fare due chiacchiere. Avanti Marco. Ciao Gianni. Buonanotte, buona giornata per domani. Io seguo a ruota, ho visto l'ora e devo ancora cenare, mi avevo detto tutto. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Gianni Capridue, Doppio Room e Pomponio, se ancora all'ascolto. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao anche a te Marco, non è piacere. Ci sentiamo. Avanti Capri, un giro e poi chiudo anche lei. Sono imprevedibili a volte, vedono, no, per imitare. alimentazione, fanno cose che non devono fare, meglio questo che magari qualcos'altro di peggio, però sicuramente dà fastidio, soprattutto se non vengono controllati, soprattutto se stai facendo cosa, stai comunicando magari fuori e ti ritrovi ad essere disturbato volontariamente da un bambino. Vabbè. Evidentemente l'ha capito, dai. Credo di sì, niente di... non è successo niente, meglio quello, come hai detto tu, che altre cose che stanno succedendo, senza ombra di dubbio. No, è che c'era Marco in portatile, quindi non si riusciva a capire niente, quindi abbiamo chiesto la cortesia se poteva evitare, visto che ha capito, o ha capito chi era vicino a lui, sicuramente. Vabbè. Va bene, Anto, dai, io spengo, non stiamo già chiudendo gli occhi. Me va la nonna, domani, la sveglia presto, come ho detto, tutto bene, fra alti e bassi, come tutti, insomma, si tira avanti. Per il resto, niente di particolare. Ok, buona via, dai, ti rimetto il microfono e chiudo tutto intorno. Kappa Roger con SL, dai. Buon 144, allora ci sentiamo domani e alle prossime, dai. Buonanotte e sogni di oro. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte a tutti, anche da Marco Scorpio. Ciao, ciao. Il grande Marco Scorpio. Ma vuoi riprendere o ti devo parlare sopra? No, stavo controllando che fosse tutto a posto, perché c'avevo l'apparato in monitor, ma non sono a piano terra, non avevo lo strumento in linea e perciò ho controllato prima di fare danno. Ok, bene, sono entrato tutto per salutarvi, dai, ancora della buonanotte, perché anche io spengo tutto e do un'occhiatina così, sto un po' al computer e poi con l'iPad e poi vado a dormire. Ciao a tutti, buonanotte, un saluto a tutti in generale. Marco Scorpio, no, QRT, ciao ciao. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime, dai. Buon QRT a chi lo sta facendo, un saluto agli ascoltoni e buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo, ciao Antonio, ciao. Ah, ciao già, pensavo avessi già chiuso, dai, ciao ciao. Siamo grazie ieri a Capri 2. Ma parli poi dei Gianni, che deve essere volontariamente se era sovramodulato, dai. No. Adesso fa Olio. Ciao ciao QSL, ciao, buonanotte a tutti, è sempre un piacere entrare qua, non ci si può mai dimenticare della 3x9. Ciao Marco Scorpio QRT. Ciao ciao Marco, ci sentiamo, buonanotte anche a te, buon trabacco per domani, ciao ciao. Ciao Marco, ciao, ricordati che gli FB è sempre qua, è sempre qua. Ciao, buonanotte a domani, ciao Antonio e ciao Gianni. Ciao Gerrut, ciao Luca, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, buonanotte a tutti, ci sono in viaggio al Gabriele. Ciao, ciao, ci sentiamo, buonanotte a tutti.